GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Infortunio mortale sul lavoro, un operaio 56enne residente a Sacile muore schiacciato da un macchinario in un mobilificio del Veneto. Anche in Friuli Venezia Giulia oggi saranno possibili disagi a causa dello sciopero proclamato dai sindacati di base che interesserà non solo il settore dei trasporti ma anche altri comparti a partire dalla scuola. Dopo la ressa dell'ultimo giorno di novembre, distributori di benzina quasi deserti ieri per l'aumento del prezzo, ma per ora non c'è stata la fuga per i rifornimenti in Slovenia. Assemblee affollate nel mondo del lavoro. Alla Varsila i lavoratori approvano l'accordo, all'Electrolux crescono i timori per gli esuberi. Anche l'acciaio può essere verde, ossia prodotto con mezzi e metodi a basso impatto ambientale. Servono impianti specifici e una parte di questi viene realizzata in questa regione a Tarcento. Raggiunto l'accordo fra sindacati e azienda sanitaria udinese sugli straordinari svolti da infermieri e impiegati. In ballo 7 milioni e mezzo. Dall'inizio del prossimo anno, per poter tenere i tavolini all'aperto, bar e locali pubblici dovranno ricevere il benestare della sovrintendenza, ma i tempi sono lunghi per il forte numero di domande. Dopo 5 mesi e mezzo di lavori, riapre al transito la passerella ciclopedonale sull'Isonzo, che collega il quartiere goriziano di Straccis con Piedimonte del Calvario. Le 7, 19 minuti e 30 secondi, buongiorno da Giorgio Bears e Daniele Lettig per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 2 dicembre. Prima di cominciare, come sempre, diamo uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo in genere è coperto sulla regione, queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 6 gradi, il vento soffia 28 km orari da est-nord-est, bora con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 50 km orari. A Gorizia 5 gradi, a Udine e Pordenone 6, a Tolmezzo 5, a Forni di Sopra, Sappada e Piancavallo 0 gradi, a Tarvisio 5 decimi di grado sotto lo zero. In montagna, sul Monte Lussari, meno 4 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan meno 3 gradi e 5 decimi, sulla costa a Lignano e grado 8 gradi. Queste invece le previsioni per oggi: cielo da nuvoloso a coperto, al mattino deboli piogge diffuse e neve sopra i 1000 metri circa, localmente fino a 700 metri. Su pianura orientale e costa soffierà bora moderata con qualche raffica ancora sostenuta verso Trieste fino alla tarda mattinata. In apertura la cronaca con l'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri in Veneto a Colle Umberto, a pochi chilometri di distanza dal confine con il Friuli Venezia Giulia, all'interno del mobilificio Furlan, che è costato la vita a Marco Pessotto, operaio di 56 anni, nato a Pordenone, residente a Sacile, dipendente dell'azienda. L'uomo è deceduto per un grave shock emorragico dopo essere rimasto schiacciato alle gambe e al bacino da un macchinario mentre stava lavorando nell'impianto. A nulla è valso il pronto intervento di soccorso del 118 e dell'elisoccorso di Treviso. Sul luogo dell'infortunio è intervenuto il personale del servizio prevenzione dell'azienda sanitaria per i rilievi e l'accertamento di eventuali responsabilità di terzi. E un altro grave incidente è avvenuto ieri nei boschi di Budoia, dove un uomo di 76 anni è rimasto ferito a una gamba mentre stava utilizzando una motosega. A dare l'allarme è stato un parente che ha prestato i primi soccorsi su indicazione del 112 fino all'arrivo dei sanitari, che hanno poi trasportato il ferito all'ospedale di Pordenone, dove è ricoverato con prognosi riservata. Una donna è stata invece soccorsa nella prima serata di ieri a seguito di un incidente stradale accaduto lungo l'ex provinciale 126 nel comune di Aiello del Friuli, all'altezza dell'outlet. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della vettura che stava guidando e la macchina si è ribaltata su un fianco. Nessun altro mezzo coinvolto, la donna è stata ricoverata all'ospedale di Udine in codice giallo. Anche in Friuli Venezia Giulia oggi saranno possibili disagi a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base, che interesserà non solo il settore dei trasporti ma anche altri comparti del settore privato e pubblico a partire dalla scuola. A Trieste saranno organizzati 3 presidi alle 9.30 in Piazza della Borsa, alle 10.45 di fronte alla sede ERA in Via dei Rettori, alle 11.45 davanti all'ingresso dell'ospedale di Cattinara per denunciare la mancanza del rinnovo dei contratti, il taglio del welfare e gli aumenti delle tariffe dei servizi energetici e dei beni primari. Per i treni a lunga percorrenza, Trenitalia non prevede cancellazioni, mentre sul sito di Italo, www.italotreno.it, sono indicati convogli garantiti. I treni regionali circoleranno invece nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a Udine e Gorizia i collegamenti sia urbani che extraurbani saranno assicurati nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Nelle province di Pordenone e Trieste, allo sciopero dei sindacati di base si aggiungono quelli proclamati su vertenze locali. A Pordenone lo sciopero del personale ATAP si svolgerà dalle 16.30 alle 20.30, sia sulle linee urbane che su quelle extraurbane. I lavoratori della Trieste Trasporti, aderenti ai sindacati FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL, UGL FNA e USB Lavoro Privato, incroceranno invece le braccia dalle 9 alle 13. A questo proposito abbiamo sentito Stefano Mauro della FILT CGL di Trieste. Siamo a rivendicare un miglioramento delle condizioni economiche e delle condizioni lavorative e della conciliazione lavoro-vita privata. I problemi grossi che hanno portato allo sciopero sono principalmente la carenza di organici e poi i salari estremamente bassi per il carico di lavoro che viene svolto. C'è anche il fatto della questione delle esternalizzazioni delle linee. Quali linee sono state esternalizzate e perché? È stata esternalizzata qualche linea, la 21, la 1, la 51, per tentare di coprire i chilometri che l'azienda deve coprire per il contratto di servizio stipulato con la regione. Quindi c'è un problema di carenza di personale, ma l'esternalizzazione che cosa comporta come differenze tra i lavoratori? Viene richiesta ai dipendenti in forza della Trieste Trasporti una flessibilità ulteriore, nel senso che sono stati esternalizzati al 99% dei turni interi e compatti e sono rimasti a noi la maggior parte di spezzati, per esempio. Ci ritroviamo tante volte, non avendo più quei turni nella nostra cadenza settimanale, a dover sapere da un giorno all'altro il turno per il giorno dopo e la maggior parte delle volte sono spezzati e con orari diversi. Qual è il motivo della carenza di conducenti? Uno stipendio molto basso rispetto a quelli che sono i carichi di lavoro che ognuno di noi sopporta ogni giorno. Stipendi bassi e carichi di lavoro pesanti e stress ha fatto sì che non si trovassero conducenti. Ma questo è un problema a livello regionale. Oggi lo sciopero sarà anche a Pordenone, quindi la situazione è molto aperta. I conducenti non si trovano, è un problema nazionale, non si trovano proprio, non mai un lavoro che non è più appetibile. Noi abbiamo chiesto all'azienda di creare delle condizioni che rendessero appetibile la nostra azienda, in tal modo che gli autisti preferissero venire da noi a guidare a Trieste. Rimanendo in tema di trasporti, Trenitalia ha presentato i nuovi orari per la stagione invernale. Due le novità principali che interessano il Friuli Venezia Giulia: ci sono 6 treni in più che collegano Trieste a Portogruaro e nel periodo natalizio, quando le scuole saranno chiuse, non ci saranno cancellazioni di treni come invece avveniva gli anni passati. Resterà invece deluso chi sperava di vedere ripristinato almeno uno dei due Frecciarossa Trieste-Milano soppressi durante la pandemia. Continuerà infatti a esserci un unico Frecciarossa al giorno, alle 6 da Trieste e alle 19.43 da Milano Porta Garibaldi. L'altra compagnia di treni, Italo, cambia orari dall'11 dicembre e introduce la fermata di Trieste Airport del treno che parte da Trieste alle 8.02, diretto a Venezia, Roma e Napoli. E anche al ritorno con il treno in partenza da Napoli che arriva a Trieste alle 20.56. Invariata la linea Udine-Roma-Napoli, una corsa al giorno in entrambe le direzioni e per la corsa giornaliera Udine-Pordenone-Milano e viceversa. E spostarsi in macchina da ieri costa un po' di più. Il governo infatti ha rideterminato il taglio delle accise sui carburanti, riducendo così l'agevolazione di circa 10 centesimi al litro. E nelle zone di confine della regione si torna a guardare al costo del pieno in Slovenia. 12 centesimi in più sul prezzo dei carburanti che pesano sui portafogli dei cittadini già alle prese con i rincari delle bollette e della spesa. Il decreto del governo dello scorso 23 novembre ha dimezzato lo sconto fiscale su benzina, diesel e GPL che era attivo da marzo. Gli effetti si fanno già sentire per i pochi che oggi si fermano a fare benzina a Gorizia. Io sono pendolare a Trieste ogni giorno, per cui è un grande problema, sì. Ti è accorto che sono aumentati i prezzi? Sono accorto, sì, faccio un pieno alla settimana, vedi te. È un continuo aumento, purtroppo è sempre più difficile, oltre agli altri aumenti degli altri generi, adesso abbiamo anche questo del carburante. Nei giorni scorsi lunghe le code ai benzinai della regione per l'ultimo rifornimento prima dell'aumento. Manuel Rizzi, proprietario stazione di servizio. In questi giorni ovviamente c'era un aumento di carburanti, tutti quanti facevano il pieno perché ovviamente la notizia ormai era nell'aria. Oggi infatti si vede che ovviamente c'è meno clientela nei distributori. Le associazioni dei consumatori parlano di un maggior aggravio per le famiglie per la spesa per i carburanti di circa 50 euro per dicembre 2022. A Gorizia però al momento non si teme un esodo fuori confine per il rifornimento. I prezzi per chi ha la tessera regionale restano infatti simili a quelli della Slovenia. Fabio Zanetti, appaltatore stazione di servizio. Rimane il patto che con lo sconto di 29 centesimi sulla benzina e di 20 sul gasolio della regione, per noi sostanzialmente cambia, ma non cambia molto, perché in Slovenia oggi ricordiamoci che costa più caro. In Slovenia la benzina oggi viaggiava a 1,446 e il gasolio a 1,62. I benzinai delle fasce confinarie aspettano ora il 1 gennaio per vedere gli effetti della nuova legge regionale che prevede uno sconto aggiuntivo sul carburante nei comuni entro 10 km dal confine. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal mondo del lavoro arriva il via libera all'accordo su Wärtsilä da parte dei dipendenti riuniti in assemblea. Il clima si fa più disteso, ma la tensione resta alta. Nei prossimi giorni è previsto lo sblocco dei motori. Ci vorranno un paio di settimane per tornare a pieno regime. Il tempo di organizzare il lavoro fermo da 5 mesi ai dipendenti della Wärtsilä, in base all'accordo raggiunto martedì notte al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, recupereranno la produzione andando avanti almeno fino a settembre 2023. Partecipatissima l'assemblea che si è tenuta all'interno dello stabilimento di Bagnoli, quasi 750 i lavoratori che hanno approvato l'accordo. 11 sono stati voti contrari. Ora si apriranno anche i cancelli per consentire di imbarcare nei prossimi giorni i motori Fincantieri destinati in Liguria. La nave è ancora nel Golfo di Trieste in attesa che si definiscano i tempi per l'organizzazione delle operazioni di carico. Antonio Rodà della Wilm. Siamo contenti che i lavoratori abbiano capito che questo accordo è un primo passo propedeutico a costruire quello che sarà il futuro di questa fabbrica e quindi a favorire quelli che saranno i negoziati con un soggetto subentrante. Un accordo indispensabile per un ritorno alla normalità e per la continuità della garanzia del salario per almeno 10 mesi, tempo in cui potrebbero anche arrivare nuove commesse e dunque altro lavoro. Il clima tra i lavoratori è più disteso, ma la rabbia resta, come ci spiega Luca Vertuani. E in questa situazione sicuramente fa arrabbiare proprio l'inizio, come è stato avviato tutta la procedura di licenziamento che poi è stata revocata dal giudice. E ora la fiducia è bassa, però grazie a questi altri 10 mesi di lavoro, diciamo, possiamo un po' stare tranquilli anche per un breve futuro. Intanto è stato deciso che il gazebo del presidio, simbolo della lotta degli operai della Wärtsilä, non sarà rimosso. Ancora Antonio Rodà della Wilm. Quello che verrà meno sarà il presidio da parte dei lavoratori, insomma, e quindi però il gazebo resterà come immagine di un'avvertenza sicuramente che è ancora lunga e che dovrà avere altri momenti di approfondimento e di discussione. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli, Venezia Giulia. Si sono svolte nello stabilimento Electrolux di Porcia le assemblee dei lavoratori con le organizzazioni sindacali che ad ogni turno hanno relazionato sull'annunciato piano del gruppo di 76 esuberi per la sede friulana, di cui 40 impiegati e 36 operai. A fronte delle previsioni di inizio anno di oltre 1 milione di macchine, il consuntivo odierno è di 685.000 lavatrici. Da qui la necessità di riduzione dei costi con tagli di organico, cui si aggiunge il mancato rinnovo dei contratti a termine. L'elemento più preoccupante, spiega Walter Zoccolan della RSU Electrolux, è la mancanza di prospettiva. Per il prossimo anno sono previsti 720.000 pezzi, ma per il futuro ci chiediamo se Electrolux sarà in grado di recuperare le quote di mercato perse. Il 10 gennaio è atteso il prossimo confronto con l'azienda. Anche l'acciaio può essere verde, ossia prodotto con mezzi e metodi a basso impatto ambientale. Servono impianti specifici e una parte di questi viene realizzata in questa regione, a Tarcento. Sarà un po' friulana l'acciaieria che promette di abbattere del 95% le emissioni di anidride carbonica, un impianto mai realizzato prima. È in costruzione in Svezia. A Tarcento si progetta una parte dello stabilimento. Qui sorge l'ex SIMAC, ora SMS, come il gruppo tedesco che l'ha acquisita 20 anni fa e che ha ricevuto la commessa svedese. Marco Asquini, amministratore delegato di SMS Group. Si tratta di un polo siderurgico che avrà il 100% di alimentazione a idrogeno verde e a energia da rinnovabili. L'innovazione sta nel fatto che avrà un impatto ambientale pressoché nullo, stiamo parlando di prossimità alla neutralità carbonica. La fabbrica avvierà la produzione tra 3 anni, ma ha già ordini da parte di aziende automobilistiche che vogliono costruire mezzi con acciaio verde. Del resto la sostenibilità è elemento essenziale oggi per convincere mercato e investitori. Tuttavia la transizione energetica non è un pranzo di gala. Lo sanno anche a Tarcento, dove i 350 dipendenti di SMS cercano soluzioni praticabili per il futuro, come appunto l'idrogeno verde, che però in contesti diversi da quello svedese costa ancora troppo. Il limite è in parte di tecnologia e di disponibilità di energia elettrica rinnovabile, che sono i due ingredienti fondamentali, combinati con una competitività complessiva che ancora non c'è. Quindi l'idrogeno verde è ancora troppo caro per essere una soluzione definitiva. Uno degli obiettivi della valle transfrontaliera dell'idrogeno tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia sarà proprio quello di rendere conveniente questa tecnologia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7.34 minuti parliamo di sanità. UIL, FPL e NURSIND hanno siglato l'accordo per l'assegnazione delle risorse aggiuntive regionali 2022 per il personale del comparto sanità dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Riguarda quasi la totalità dei suoi circa 8.000 dipendenti, esclusi i medici, per il pagamento di una parte delle ore in più che hanno fatto nel corso di quest'anno. In ballo ci sono quasi 7 milioni e mezzo di euro che, insieme ad altri fondi della regione, serviranno a coprire il 40% delle 400.000 ore aggiuntive prodotte quest'anno dal personale. È ancora poco, ma è comunque un buon numero, scrivono UIL, FPL e NURSIND in una nota, nella quale annunciano di aver firmato responsabilmente l'accordo, consapevoli che in mancanza di sottoscrizione, entro fine dicembre, i fondi ritornerebbero alla Regione, con il rischio di penalizzare i lavoratori. Alla firma dell'intesa con i vertici dell'azienda sanitaria, i sindacati sono giunti su 2 tavoli separati, UIL, FPL e NURSIND da una parte e CISL dall'altra. Quest'ultima ha mosso delle osservazioni, riservandosi la firma dell'accordo al prossimo incontro fissato per il 19 dicembre. È il momento dell'influenza che si sta diffondendo a macchia d'olio, colpendo soprattutto i più giovani e i bambini, ma è l'infezione da coronavirus che ancora prevale. Nel primo inverno in cui Covid e influenza circolano insieme, per ora a prevalere in regione resta sempre il Covid, più tra adulti e anziani, mentre l'influenza, arrivata in anticipo rispetto agli anni passati, sta colpendo molto di più i bambini sotto i 10 anni e i giovani fino ai 20, a rilevarlo il responsabile del laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell'influenza e per il sequenziamento del Covid, Pierlanfranco Dagaro. La diffusione dell'influenza è in aumento esponenziale, sta circolando rapidamente nelle varianti più aggressive, riferisce Dagaro, citando i dati dell'ultimo report dei Medici Sentinella, secondo cui la sua incidenza nella fascia pediatrica la scorsa settimana è stata del 30 per mille, mentre quella complessiva risultava dell'8 per mille. Le prossime settimane saranno decisive per capire l'evoluzione della stagione, aggiunge il virologo, osservando che il virus influenzale sembra essere più impattante rispetto al coronavirus, contro il quale l'immunità oggi risulta più diffusa. Non così per l'influenza, dopo quasi 3 anni di diffusione assente, spiega Dagaro, richiamando l'importanza di sottoporsi al vaccino antinfluenzale. Su questo fronte sta iniziando in questi giorni l'accesso alla vaccinazione contro il Covid e l'influenza in 10 farmacie del Friuli Venezia Giulia, per lo più sparse nelle aree periferiche, da Moggio Udinese a Percoto, al quartiere San Gottardo a Udine in Friuli, a Romans di Sonze e Doberdò del Lago nell'Isontino, ad Azzano Decimo e Polcenigo nel Pordenonese, a Basovizza e Trieste in Piazza della Libertà nell'area giuliana. In tutte Federpharma segnala un alto numero di richieste di entrambi i vaccini, a prenotarsi soprattutto over 60 e anziani, una risposta positiva per l'associazione di categoria che a regime stima possano aderire al progetto vaccinale il 10% delle 400 farmacie della regione. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di cronaca: nei giorni scorsi circa 300 metri di rete da posta posizionati all'interno del canale navigabile di accesso a Porto Nogaro sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera. La rete, così collocata, chiudeva totalmente il canale, mettendo in pericolo la sicurezza della navigazione. Al suo interno sono stati ritrovati pochi esemplari di pesce ancora in vita, subito rigettati in mare. 20 sindaci provenienti da tutta la regione saranno i protagonisti di un progetto finanziato dal Consiglio d'Europa che mira a fornire strumenti pratici per accrescere l'efficacia del loro operato sia singolarmente che all'interno dell'amministrazione comunale. L'iniziativa si tiene in Italia per la prima volta e nella nostra regione si svolgerà in due fine settimana, oggi e domani, e venerdì 16 e sabato 17 dicembre al castello di Spessa di Capriva di Sonzo. Ad inaugurare l'evento, promosso dall'Associazione del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa del Friuli Venezia Giulia, saranno Alina Tatarenko, capo della divisione della governance presso la Direzione Generale del Consiglio d'Europa, e il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Finita l'emergenza Covid, rientrano anche le misure speciali per favorire le attività economiche. I dehors di bar e ristoranti, ad esempio, dal prossimo anno dovranno essere autorizzati dalle soprintendenze e non mancano le polemiche. Con decreto il Ministero della Cultura mette ordine fra tavolini, sedie, pedane, ombrelloni all'aperto di bar e ristoranti, ma anche gazebo per eventi temporanei e arredi comunali. E così dal prossimo 1 gennaio, con la fine delle misure per l'emergenza pandemica, tutti coloro che hanno occupato porzioni nuove di suolo pubblico dovranno chiedere un'autorizzazione esplicita alla soprintendenza per i beni archeologici, belle arti e paesaggio. In Friuli Venezia Giulia sono interessati dal decreto ministeriale 27 comuni, compresi i 4 capoluoghi di provincia accomunati dal fatto di essere città dall'eccezionale valore storico e artistico. L'elenco dettagliato delle aree per le quali è necessaria l'autorizzazione si trova online sul sito della soprintendenza. La domanda di autorizzazione modulo ex articolo 21 è gratuita. Possono volerci però fino a 120 giorni prima di ricevere una risposta, nel mentre i richiedenti continuano a tenere i tavolini e gli altri oggetti nei dehors. In caso di controlli basterà dimostrare di avere presentato la domanda. Allarmato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che ha scritto al ministero. Mi auguro che si sia trattata di una dimenticanza o comunque di una leggerezza e che perciò il governo possa intervenire tempestivamente per evitare danni su una categoria che è già stata ampiamente penalizzata. La soprintendenza sarà sommersa di carte e già lavora in sofferenza con 30 persone in meno del dovuto in organico. La soprintendente Simonetta Bonomi sottolinea che è tempo di uscire da anni di totale liberalizzazione e darsi delle regole. L'attuale decreto chiarisce e definisce i contorni di spazi urbani di fatto già vincolati dal codice dei beni culturali e potrà dare indicazioni sul tipo di arredi o ridurre l'estensione della superficie occupata. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo 5 mesi e mezzo di lavori riapre al transito la passerella ciclopedonale sull'Isonzo che collega il quartiere goriziano di Straccis con Piedimonte del Calvario. Alla cerimonia di riapertura hanno preso parte il prefetto Raffaele Ricciardi, il sindaco Rodolfo Ziberna e gli assessori ai lavori pubblici e decentramento Sara Filisetti e Maurizio Negro, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Riapre al transito dopo 5 mesi e mezzo di chiusura la passerella ciclopedonale sull'Isonzo che collega il quartiere goriziano di Straccis con Piedimonte sul Calvario, un percorso utilizzato soprattutto dai cittadini della parte ovest della città, altrimenti costretti a un lungo giro per uscire da Piedimonte. I lavori per il consolidamento di una delle campate, considerata in condizioni critiche, erano iniziati a metà giugno. Il percorso era stato interdetto dal sindaco Rodolfo Ziberna a scopo precauzionale nel dicembre 2020, dopo aver appreso dai tecnici del rischio statico per il grave stato di incuria. Andrea Marchioli, progettista, direttore dei lavori. I primi rilievi sono stati effettuati nel 2020, sono state individuate le criticità sulla campata numero 8, dopodiché è stata chiusa quasi un anno per riuscire ad effettuare ulteriori sondaggi per le verifiche. Dopodiché nel 2022, sulle ulteriori verifiche fatte, sono stati iniziati a giugno gli interventi e si sono conclusi quindi la settimana scorsa. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamenti climatici e patrimonio archeologico è il tema della conferenza che si svolgerà questa mattina dalle 9.30 al comune di Aquileia, organizzata dall'associazione Globe Italia per far conoscere a studenti e cittadini le problematiche del territorio della bassa pianura friulana legate ai cambiamenti climatici e gli scenari di rischio per i beni archeologici del sito UNESCO di Aquileia. Sentiamo la presidente dell'associazione, Lorella Rigonat. Il focus del convegno di stamattina è riservato alle problematiche del territorio della Bassa Friulana e l'impatto dei cambiamenti climatici proprio su quest'area, in particolare sul sito UNESCO di Aquileia. È nostra intenzione fornire agli studenti, ma anche ai cittadini, una visione integrata. La visione integrata sarà fornita principalmente dai quattro relatori, che sono il sindaco Emanuele Zorino, il direttore della Fondazione Aquileia, il dottor Chiussi, la ricercatrice Florence Coleoni dell'OGS e l'ingegner Barbara Fico del Consorzio di Bonifica. Quindi parleremo con chi si occupa di questo territorio e con chi dal punto di vista scientifico sta studiando cosa sta succedendo, in particolare il problema dell'innalzamento del livello del mare da oggi al futuro per il Friuli Venezia Giulia. Quale potrebbe essere l'impatto del cambiamento climatico su appunto una zona archeologica come Aquileia? Ci immaginiamo un innalzamento del livello dell'acqua, quindi un rientro anche del mare e quindi un innalzamento, diciamo, anche delle caratteristiche, cioè una variazione delle caratteristiche dell'acqua, quindi passare dall'acqua dei fiumi come il Natisa a un'acqua dolce, a un'acqua salata, quindi delle criticità per quel che riguarda le coltivazioni, ma anche proprio per i reperti archeologici. Sarà anche un'occasione per proporre alcune soluzioni possibili? Speriamo di sentirle appunto sia dal consorzio che si occupa appunto della gestione, della sistemazione idraulica di quest'area, sia anche dal direttore Chiussi, perché in particolare, essendosi occupato anche di cambiamenti climatici di altre aree nel mondo, potrà darci sicuramente gli studi più all'avanguardia. Un sistema di questo tipo, a nostro avviso, deve prevedere il coinvolgimento di tutta la popolazione. La nostra volontà è quella di coinvolgere anche gli studenti, proprio perché saranno loro poi i futuri registi su quest'area. E siamo allo sport calcio. L'Udinese ha prolungato di un anno l'accordo con il portiere Marco Silvestri. Il contratto è stato allungato fino al 30 giugno 2025. Silvestri è in bianconero della scorsa stagione e finora in campionato ha difeso i pali dell'Udinese per 50 volte. In casa triestina invece piove sul bagnato. Il suo attaccante Mattia Felici, espulso nella gara persa a Piacenza per 2-0, è stato squalificato per ben 4 giornate per aver spinto l'arbitro. Nuova veste grafica per il quotidiano in lingua slovena Primorski Devnik. Un restyling che testimonia che crediamo ancora al giornale cartaceo, ha affermato il direttore responsabile Igor Devetak. La scelta di ammodernare la veste grafica del quotidiano prima di agire sul web è dovuta al desiderio di rendere il giornale un prodotto più arioso e leggibile. Visto che, in controtendenza con il trend di caduta a picco nelle vendite di copie, i lettori del Primorski, la maggioranza dei quali è abbonata, continuano ad essere fedeli alla versione cartacea. Rinnovato anche il sistema editoriale del quotidiano che, è stato spiegato, permetterà di snellire il lavoro redazionale liberando risorse per il web. Alle 7.45 minuti apriamo la rassegna stampa con la prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. La legge di stabilità della regione supera i 5 miliardi, 4% in più alla sanità, dal primo via libera in giunta lo scorso 4 novembre al confronto di ieri in prima commissione. La manovra del Friuli Venezia Giulia si è arricchita di ulteriori 292 milioni di euro. Ultimi passaggi prima del via al dibattito in consiglio. In arrivo 120 milioni per il TPL. A centro pagina l'appello del Burlo Garofalo ai genitori, troppi accessi al pronto soccorso. Il primario dice ormai sono oltre 100 al giorno. Nella maggior parte dei casi si tratta di futili motivi, non si portino qui i figli dopo qualche ora di febbriciattola, prima si consulti il pediatra, dice. Bufera in consiglio sull'emergenza dei migranti alla Diaccio in centro. L'opposizione dice bisogna dare una risposta ora. La maggioranza replica il problema sono i trasferimenti. Di spalla un altro appello, quello della Fondazione Lucchetta, che si rivolge alla città dicendo aiutateci di più. L'addio a Piero Napp, il primo vincitore della Barcolana, e poi la fotonotizia torna in Viale la Magia di San Nicolò con la tradizionale fiera di inizio dicembre che fa ritorno dopo 2 anni di limitazioni anti-Covid. Infine per lo sport un'intervista al presidente della Triestina Giacomini, deluso per il momento difficile della squadra che dopo i proclami dell'estate scorsa ora dice ci salveremo. L'inflazione sale ancora, è il titolo scelto per l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. L'indice nazionale ha raggiunto l'11,8%, l'aumento mensile è stato dello 0,5%. Al centro, una fotonotizia illustra l'inizio dei test sulla app per lo sconto carburanti. La sperimentazione è partita in 40 distributori. Richiamo in alto per una notizia di economia. Il gruppo Pittini investe in Meridione, 35 milioni di euro per Sider Potenza. Nelle pagine interne, un articolo spiega che la manovra di bilancio regionale conquista altri 292 milioni. Le pagine della cronaca locale si aprono invece con la Tari, oggi l'ultimo giorno per il pagamento, che si può fare su internet. In città, spesa di 13,7 milioni per i rifiuti, ma nonostante gli aumenti, Udine è tra le città meno care. Anche l'edizione di Pordenone del Messaggero si apre sull'inflazione, mentre la fotonotizia è dedicata all'operaio di Sacile morto sul lavoro in Veneto, schiacciato da un macchinario. Spazio poi per un richiamo sullo slittamento al prossimo anno del ritorno del mercato in Piazza della Motta. La sezione della cronaca cittadina titola invece sui rincari. Sale pubbliche non più gratis per fronteggiare il caro energia, stretta sulle concessioni date sempre senza oneri, recuperati 200.000 euro di Tari evasa. Il piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone apre la prima pagina con il raduno nazionale delle fondazioni per Gorizia 2025. Via i festeggiamenti per i 30 anni della Carigo, attesi in città oltre 1.000 delegati da tutta Italia. La avvertenza Varzila, arriva il sì dei lavoratori all'accordo con l'azienda, slitta lo sblocco dei motori. La fotonotizia centropagina da San Nicolò a Sant'Andrea al via le prime fiere post-Covid. Nel pomeriggio l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Vittoria con la fanfara della Pozzuolo. Da domani le giostre e le bancarelle affolleranno per l'ultima volta i giardini di Corso Verdi. A Monfalcone 200 bancarelle e 24 stand di negozianti ed esercenti locali. Di spalla, riaperta dopo 5 mesi a stracci la passerella tra le polemiche, il comitato diserta, i residenti lamentano disinteresse del comune e lungaggini. Il sindaco dice lavori completati, ora i rallentatori di velocità. Nuovo polo termale a Grado, sottoscritto il terzo atto, ora manca solo la parte del Tribunale di Gorizia. L'ultimo passaggio, atteso entro il 31, riguarda la valutazione del diritto di superficie del terreno a favore dell'ente. Infine, per il calcio, la Pro Gorizia culla il sogno della Serie D. Il dorso di Pordenone del Gazzettino ha due titoli forti. In alto, uno dedicato ai tavoli esterni dei bar, serve l'ok della soprintendenza, i sindaci infuriati scrivono al governo. Al centro, invece, si parla dell'operaio morto schiacciato in fabbrica. In una fotonotizia, sempre a centropagina, la stagione degli sport invernali. Tutto pronto per lo sci, manca la neve. Martedì si deciderà cosa fare. Il titolo del dorso di Udine, sempre del Gazzettino, è dedicato allo sciopero dei trasporti. Trasporto pubblico, si fermano i bus, turni massacranti, stipendi bassi e poco personale, oggi scatta lo sciopero a Udine. Proteste in città e disagi in tutta la provincia. In alto, sempre il titolo sui Deor dei pubblici esercizi, mentre a fondo pagina due richiami a notizie di sport. Udinese, Silvestri allunga il contratto e Biathlon, Vittozzi da spettacolo in Coppa del Mondo. Alcuni appuntamenti di oggi. Inizia questa mattina alle 8.30 al Trieste Convention Center in Porto Vecchio il 35° congresso nazionale Confronti in Pediatria, che fino a domani riunirà pediatri di tutta Italia per discutere dei temi più attuali di questa branca della medicina, dal long covid alle allergie alimentari, dalla diagnosi precoce alla pediatria d'urgenza. Una lezione concerto per spiegare come alcuni principi basilari dell'economia abbiano condizionato la genesi e le regole stesse di alcune celebri composizioni musicali di Mozart, Beethoven, Chopin e Brahms. È quella che terrà il maestro Giuseppe Fausto Modugno al MIB, Trieste School of Management, un evento speciale per sostenere l'ospedale materno infantile Burlo Garofalo. Inizio alle 18.30 al Palazzo del Ferdinandeo a Trieste. Con l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Vittoria, oggi alle 18 si apre ufficialmente il dicembre goriziano 2022, il cui programma prevede un totale di oltre 70 appuntamenti che scandiranno il periodo natalizio. L'inaugurazione sarà accompagnata, come da tradizione, dal concerto della fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. In vista dei festeggiamenti di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, che si ricorda il 4 dicembre, oggi la Capitaneria di Porto di Trieste celebrerà la ricorrenza in anticipo con una Santa Messa nella Chiesa di Sant'Antonio Nuovo, che sarà officiata dal Vescovo Monsignor Antonio Santin. Si inaugura alle 11 a Palazzo Gopcevic a Trieste la mostra Foto Omnia di Ugo Borsatti, scatti in comune organizzata in occasione del 70° anniversario dello storico studio fotografico. La mostra sarà visitabile fino al 26 febbraio. Un incontro per ragionare sulla percezione e riconoscimento dei patrimoni culturali da parte delle comunità locali è quello che si terrà a Palazzo Toppo Wasserman a Udine, alla presenza di Chiara Bettuzzi, capodelegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano FAI di Udine, e Francesca Simi, archeologa dell'Ateneo Friulano, inizio previsto alle 15.30. Sempre a Udine alle 16 al Museo Etnografico sarà inaugurata la mostra 30 anni senza Moretti, curata dal giovane artista francese Fabien Marc e dedicata al trentennale della chiusura dello storico stabilimento della birra Moretti di Viale Venezia. Sarà visitabile fino al 15 gennaio. Una notizia di servizio. Nella notte fra oggi e domani si terrà un'esercitazione coordinata dalla Prefettura di Trieste, finalizzata a testare il flusso comunicativo fra Rete Ferroviaria Italiana e le sale operative dei Vigili del Fuoco e della Polizia Ferroviaria e quella per le emergenze sanitarie e la sala operativa della Protezione Civile. L'esercitazione avrà ad oggetto la simulazione di un incidente nella galleria ferroviaria sotterranea di Cintura a Trieste. Il rione di Roiano, in particolare la via dei Moreri, saranno interessati alla circolazione e sosta dei diversi mezzi di soccorso impegnati nell'operazione. Ultimo appuntamento dell'anno per la rassegna I colloqui dell'abbazia all'abbazia di Rosazzo alle 18. Sarà protagonista lo scrittore e giornalista Alessandro Marzomagno, che presenterà il suo ultimo libro Venezia, una storia di mare e di terra, in dialogo con la curatrice della kermesse Margherita Reguitti. E poi un recital di giovani coristi che alterneranno canti popolari, canzoni swing e pop, ispirandosi agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Il Free Voices World Choir si esibirà questa sera al Teatro Comunale di Monfalcone con inizio alle 20.30. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con Vue o Fevelin D, che parlerà della difficoltà di fare impresa nelle aree interne e delle prospettive delle valli del Meduna. Alle 11.20 andrà in onda un tranquillo weekend da paura con i più importanti eventi e avvenimenti culturali ed intrattenimento del fine settimana in regione. I programmi regionali torneranno poi alle 13.30. E alle 7.53 minuti si chiude così questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz e Daniele Lettig, con la collaborazione tecnica di Vassia Cris Mancic ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.